Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria, di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, anche oggi da sola al timone di Due di Denari. Salutiamo Mauro Meazza, che non sarà con noi per qualche giorno, ma insomma, caro Mauro, anche se tu non ci sei, oggi mi tocca cominciare con una notizia molto breve, scomodando Edith Piaf, che riguarda il nostro grande amore che è Amazon. Naturalmente lo dico in maniera ironica, visto che gli ascoltatori ci accusano sempre di parlarne troppo, di pubblicizzarlo tanto. E beh, sappiate che a Jeff Bezos le cose non vanno sempre bene, o almeno come vorrei, perché è successo questo: che gli abitanti di Fournet, un piccolo comune in Provenza, si sono ribellati ad Amazon. Apicoltori ed ambientalisti hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo contro il gigante dell'e-commerce americano, che vuole costruire in questa piccola cittadina un deposito di 40.000 metri quadrati. Ma secondo i cittadini questo metterebbe in pericolo le piccole imprese e l'e-commerce locale, e quindi per il momento gli abitanti di Fournet, che conta meno di 1.000 abitanti, hanno vinto. I lavori per la costruzione di questo super deposito sono stati interrotti e quindi oggi, come dire, siamo dalla parte di questo piccolo paese che vuole salvaguardare l'economia locale, l'economia del territorio. E allora, però, non sarà questo il tema di cui parliamo questa mattina. Abbiamo una puntata molto ricca, sia nella prima parte con il nostro giornale Radio del Risparmio e un ospite che ci darà una primizia, e poi nella seconda parte parleremo di un tema che è, come dire, un grande classico in questo periodo dell'anno: la manutenzione della caldaia, dell'impianto di riscaldamento. Già da ieri gli impianti appunto sono stati accesi, soprattutto i centralizzati delle grandi città, e quindi è consentita appunto l'accensione dell'impianto di riscaldamento, d'altronde le temperature lo richiedono. Ma ci siamo messi in regola con tutte le manutenzioni che vanno fatte in questo periodo dell'anno, ci ritorniamo anche quest'anno, alla luce anche del fatto che naturalmente per chi volesse invece rinnovare l'impianto di riscaldamento sapete che c'è una gamma di incentivi molto ampia, e quindi faremo un punto se sarà necessario anche su questo. Ma in realtà il tema della giornata è proprio la manutenzione, il controllo fumi, la revisione. Insomma, siamo in regola con questa operazione oppure siamo ancora un pochino indietro? Ne parleremo con il nostro esperto di quest'oggi. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure ci potete scrivere come sempre al 349 238 6666. Potete mandarci degli sms o dei messaggi utilizzando WhatsApp, che vi consente anche di inviarci le vostre divertenti e sempre utili tracce audio. Adesso partiamo con il giornale Radio del Risparmio. E adesso, signore e signori, il giornale Radio del Risparmio. And we're down, we go. Potremmo intitolare questa prima notizia del giornale Radio del Risparmio tutta colpa di un avverbio, vero Marco Lombardo? Allora, è una notizia abbastanza fresca, nel senso che ce l'ha segnalata questa mattina un operatore della mediazione creditizia, appunto, che ringrazio. La notizia riguarda il fondo di garanzia mutui. Vi ricorderete, era previsto da una legge del 2013, e questo fondo di garanzia mutui, sostanzialmente stabilito dal Ministero dell'Economia e gestito tramite la Consap, che è una società della quale parliamo molto spesso perché è quella società del Ministero dell'Economia che gestisce proprio tantissimi fondi per i cittadini. E allora questa legge, ricorderete, questo fondo di garanzia mutui prima casa, che era stato proprio fissato da questa legge del 2013, aveva permesso a tantissime famiglie italiane di ottenere un mutuo fino al 100%, perché per gran parte garantisce lo Stato, ed era una iniziativa che nella sostanza voleva aiutare soprattutto soprattutto i giovani, i giovanissimi, a coronare il sogno della loro prima abitazione. E allora che cosa succede? È successo che con il decreto agosto sono cambiati un po' i criteri per accedere a questa garanzia. Allora, fin dai tempi dell'introduzione del fondo, ci segnala la mediazione creditizia, veniva data una priorità ai giovani con contratto atipico e ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi e anche agli affittuari di alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica. Che cosa è successo con la legge, appunto, con il decreto agosto? Che nella sostanza, mentre prima appunto a queste categorie veniva data una priorità per avere accesso a questo fondo, adesso nella sostanza l'avverbio prevalentemente è stato sostituito dall'avverbio esclusivamente, per cui si darà priorità totale a tutte le a tutti i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, alle coppie coniugate il cui nucleo sia stato costituito da almeno 2 anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età. Nella sostanza oggi questi diventano requisiti esclusivi e non più prevalenti, e quindi il mondo dei mutui è un po' preoccupato, perché naturalmente molte categorie saranno escluse dalla possibilità di accedere a questo fondo di garanzia. Una questione un po' complessa, ma che per gli operatori del settore invece è molto molto chiara, e magari sarà per noi anche l'occasione per tornarci prossimamente con un approfondimento. Peraltro, a proposito di mutui, proprio il CRIF, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi perché fanno questa iniziativa di educazione finanziaria che si chiama Faccio Tesoro, in realtà ha reso noto nelle ultime ore cosa sta succedendo per quello che riguarda l'erogazione di mutui. Dopo un settembre caratterizzato da un consolidamento delle richieste di mutui e surroghe più 13%, in realtà pare che qualche cosina stia di nuovo cambiando. Nel periodo fra il 5 e l'11 ottobre è stato registrato un calo del 7,9% rispetto ad un anno fa. È il primo e unico dato negativo dopo 4 mesi di crescita ininterrotta. Non vorrei che, appunto, già si cominciano a vedere un po' i segnali delle preoccupazioni legate alla nuova emergenza Covid. Gli italiani, peraltro, non vedono avvicinarsi la fine dell'emergenza. Il 47% prevede che ci vorrà l'intero 2021 per poter uscire da questa difficile situazione. Il 36% confida che l'emergenza Covid possa risolversi tra 3 e 6 mesi. Lo rileva l'osservatorio mensile Findomestic di ottobre. I timori degli italiani sono in calo rispetto a prima dell'estate, ma rimangono comunque su livelli elevati. Il 39% degli intervistati è molto preoccupato per l'economia del paese, il 27% degli intervistati è molto preoccupato per i redditi familiari, il 24% per la salute. E sebbene 7 italiani su 10 pensino che l'Italia abbia gestito meglio rispetto ad altre nazioni l'emergenza sanitaria, l'impatto sui consumi si fa sentire, perché dopo l'ottimismo di agosto, a settembre si registra già un arretramento medio delle intenzioni di acquisto degli italiani del 6,3%. Un'altra notizia che vogliamo raccontarvi riguarda invece l'ambito bancario, non riguarda né prestiti né mutui né consumi, ma ieri a Roma, e ci faceva piacere segnalarla, è stata presentata una iniziativa destinata a favorire politiche di inclusione ad opera appunto della Banca Nazionale del Lavoro, della BNL Bempe Paribas. La banca ha assunto e formato 4 giovani per seguire le esigenze di clienti appunto non udenti, clienti sorde, e praticamente sono state proprio formate 4 persone con l'esclusivo scopo di, comunicando la lingua dei segni, di seguire persone appunto con la medesima disabilità. Un'iniziativa, racconta la BNL, che mette al centro le persone e le loro peculiarità in una logica di inclusione e apertura alle diversità. Un nuovo modello di servizio e consulenza costruito proprio con le persone sorde e per le persone sorde. Infatti sono stati formati proprio 4 dipendenti con questa caratteristica per rendersi appunto disponibile proprio per i clienti che hanno questa necessità. L'ultima notizia: continua l'impegno dell'IVAS, l'Istituto di Vigilanza sul Mercato Assicurativo, per il risveglio delle polizze dormienti. L'Istituto infatti ha inviato una lettera in cui offre alle compagnie assicurative anche quest'anno il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati italiani e i dati sui decessi disponibili presso l'anagrafe tributaria, in modo da agevolare la ricerca proprio delle polizze dormienti, di polizze non riscosse. mosse. I dati raccolti aiuteranno le assicurazioni a trovare e contattare i beneficiari delle polizze vita dormienti per la liquidazione dei capitali assicurati. È un'esigenza naturalmente ancora più pressante in questo periodo, perché le migliaia di decessi purtroppo legati al Covid nei mesi scorsi potrebbero non essere state segnalate alle assicurazioni per il contesto drammatico in cui sono avvenute, appunto lontane dai familiari. E magari, così lo dico anche a Mauro se ci sta ascoltando, anche Mauro questa tematica qua la mettiamo nella nostra agenda per poterla approfondire prossimamente con magari una puntata apposita. Adesso il primo temino di stamattina, abbiamo anche un ospite. Direi che non è mai troppo tardi per occuparsi della propria pensione, e semmai è troppo tardi quando ci vai in pensione e ti accorgi che l'assegno pensionistico che ricevi è troppo magro, perché magari poi nella vita professionale non ti sei impegnato a, come dire, integrare l'assegno pubblico con una forma privata. Ormai questa è un'esigenza imprescindibile, ma insomma questa è solo una delle considerazioni che fa il libro, che è in edicola domani, da domani anzi, con il Sole 24 Ore. La pensione su misura, pensarla, costruirla, gestirla, e chi altro poteva coordinare questo lavoro e scriverne gran parte se non il nostro Marco Lo Conte, giornalista esperto di previdenza del Sole 24 Ore. Non sei, che caro amico Marco, buongiorno e bentrovate, grazie. In bocca al lupo per la tua avventura di domani. Crepi il lupo e tanti lunga vita alla pensione. Ecco, no, tra l'altro da domani insomma cercheranno il tuo di libro, e spero anche il nostro, che è ancora in edicola. Ci facciamo una concorrenza fra di noi, ma direi proprio di no, perché facciamo cose diverse. Investire è facile. Esatto, anche nei momenti difficili, e questo lo è. Allora, è un momento sempre difficile per pensare alla pensione. In età naturalmente precoce è un tema che rifugiamo, non abbiamo voglia di impegnarci in questo, poi magari a metà della nostra vita professionale cominciamo a fare due conti e cominciamo ad avere delle sorprese non tanto gradevoli. Detto questo, Marco, intanto facci tu un'anticipazione, un po' un biglietto da visita del lavoro che va in edicola domani insieme al Sole 24 Ore, sarà in edicola appunto per diverse settimane, poi credo che finirà come il nostro, andrà anche in libreria, ma insomma certo. Quali sono un po' gli stimoli che abbiamo voluto offrire ai futuri pensionati d'Italia? Ah, guarda, potrebbe dire con uno slogan: non è mai troppo presto per occuparsi della pensione, perché ci si può iscrivere anche prima di iniziare a lavorare, ancora in fasce, perché la norma permette di essere iscritti, di iscrivere i familiari a carico di un fondo pensione, i figli per esempio di chi è già iscritto, perché più tempo si risparmia nella previdenza e migliore sarà il risultato finale. Io voglio dare un messaggio positivo, perché sì, troppe volte la pensione viene associata a questa cosa, no? questo compito che dobbiamo prendere in mano, che è complicato, difficile, di cui non capiamo un granché, e quindi... Ma non solo, c'è anche quello scoramento che tu indichi, quindi, anche nel tuo passaggio, in cui dici: quando parliamo di questo tema ci viene sempre da pensare tanto la pensione non la vedrò mai, e invece non è così. E invece no, anzi, è più facile se ci pensi prima, se ci pensi da giovane, è più facile non solo perché da giovani sei più duttili nel capire le cose, nell'impostare una strategia, nel vedere il futuro, nell'organizzarlo, nel pianificarlo, ma costa anche di meno, perché meno prima si parte e meno soldi devi mettere da parte, perché hai tanto tempo per far lavorare il tuo risparmio, e quindi puoi far crescere ancora di più i tuoi risparmi, avrai rendimenti superiori e quindi dovrai accantonare meno denaro. Il calcolo che si fa è: il 25enne, per avere 100 euro di pensione, deve mettere da parte ogni mese 22, ma se rimanda 40 anni, per avere sempre gli stessi 100 euro di pensione, ne deve mettere da parte 55, è esatto, molto di più, e quindi prima si parte meglio è. E questo tra l'altro è un messaggio che noi vogliamo dare anche a tutti coloro che molto spesso ci scrivono, perché per fortuna ci sono ancora tanti nonni che hanno qualche risorsa da accantonare a beneficio dei propri nipoti, e insomma fate un pensiero su questo, non chiedeteci come vi capita spesso di fare, datemi il nome di una piattaforma dove poter investire per veder moltiplicare il mio denaro come i pani e i pesci, come diciamo sempre con Mauro, ma in realtà facciamo qualcosa di più utile per le generazioni che in questo momento sono in difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro e quindi fanno più fatica a cominciare a costruire il proprio futuro previdenziale da sé. Un libro, Marco, con tantissimi contributi anche istituzionali rilevanti. Sì, abbiamo fatto un libro che serve a tante persone diverse, ai giovani e a chi non ne sa nulla, con il primo capitolo dedicato con passo passo i 10 step per costruirsi la pensione, le cose da fare proprio condotti per mano nei diversi passaggi per compiere le scelte giuste. Poi analizziamo come cambia nel secondo capitolo il mondo, il sistema previdenziale, come sta cambiando, come cambierà, e poi i contributi di tutti i protagonisti del mondo previdenziale, dal presidente dell'INPS Tridico al presidente della Covid, della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Mario Padula, al presidente di MEFOF Mauro Marè, al presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, alla presidente dell'ANIA Maria Farina. Sì. Sandro Gronchi, che è il padre del sistema contributivo italiano, e tanti altri contributi che offrono un mosaico di punti di vista molto interessanti. Tra l'altro ci sono anche delle notizie, perché Tridico ci dice come vede il post quota 100 ed è interessante, molto interessante. Allora non lo anticipiamo, così per tutti i curiosi che vogliono sapere se potranno più avanti utilizzare questa opzione, che in realtà è ancora sperimentale ma credo in scadenza, certo. Non si sa bene, certo, se l'esecutivo è intenzionato a confermarlo, quindi sarà interessante appunto andare a curiosare proprio tra le parole dell'attuale presidente dell'INPS. Però Marco, in realtà volevo sempre senza anticiparci troppo, i 10 passi verso la pensione, non dico tutti e 10, dicene 2 o 3. Allora, primo, controllare che tutti i contributi vengano versati correttamente. Sembra niente, però se c'è un buco contributivo te ne accorgi dopo 20-30 anni e non lo puoi più recuperare perché vanno in prescrizione dopo 5 anni. E questo quindi si può fare perché con l'INPS, anche se con le difficoltà, perché adesso non possiamo più utilizzare il PIN dispositivo, dobbiamo farci la SPID, ma l'estratto conto contributivo possiamo andare a controllarlo. E questo è un suggerimento utile. Poi, anche perché la busta arancione è chi l'ha vista più. Ecco. Okay, poi In realtà c'è, però va bene, insomma, poi ne parleremo. E secondo step, utilizzare un pensionometro in assenza della busta arancione, cioè uno strumento tecnologico, insomma, un tool, un software tipo quello che c'è sul Sole 24 ore, che consente di stimare quale potrà essere la nostra pensione futura di primo pilastro e vedere che effetto fa risparmiare più o meno in un modo o nell'altro per avere un secondo pilastro di rendita pensionistica. E facendo un po' di casi, mettendo di più di meno, bene, questo è un esercizio molto utile per capire la correlazione tra la mia scelta di oggi e il risultato finale che avrò, che so, tra 30-40 anni. È molto interessante, chiaramente sono stime, non è una garanzia, però è molto utile per in qualche modo tracciare il futuro e capire un po' la relazione tra i fatti. Questo sicuramente è indispensabile. Un ultimo commento, Marco, te lo lascio fare leggendoti il messaggio che arriva sempre di questo tenore da parte degli ascoltatori quando tocchiamo il tema della previdenza complementare. Come si fa a costruire una pensione alternativa con gli stipendi che abbiamo? E allora Marco lo diceva, intanto sicuramente partendo molto presto, perché si può almeno nei primi anni diversamente versare delle quote sostenibili. E quindi questo è un punto. E poi magari, io non dico facendo qualche rinuncia, però il punto è che oggi una gamba privata bisogna metterla, non c'è alternativa. Io direi che c'è una questione di gerarchia e di priorità, no? Che cos'è più importante? Allora, per esempio, gli italiani tengono molti soldi sul conto corrente mediamente. Magari non tutti servono proprio a vista, no? Per il momento. Magari una piccola quota potrebbe essere destinata al medio-lungo termine, il lungo termine alla pensione. Poi ci sono tanti modi per avere anticipazioni, per cui quando servono si possono riprendere indietro in parte almeno. Per cui, esatto. Però io dobbiamo rimettere la previdenza al centro del risparmio, perché è quella la priorità. Troppo spesso, giustamente, c'è l'offerta di fondi comuni, di altre forme di investimento, però io credo che siano secondari rispetto all'obiettivo di costruirsi un futuro sereno quando smetteremo di lavorare, ossia la pensione. Esatto. Prima la pensione. Informiamoci, perché magari anche questa idea che abbiamo di dover sostenere chissà quale spesa mensile per farci la pensione di scorta è un'idea sbagliata, è un equivoco di fondo, e forse la sorpresa potrebbe anche essere che la spesa è del tutto sostenibile. E quindi brevemente, in Inghilterra hanno fatto una campagna proprio su questo, hanno detto rinunci a due pinte di birra al mese, e con il costo di quelle due pinte di birra risparmi per il fondo pensione. È un punto di partenza, chiaramente, però serve per iniziare ad abituarsi a mettere da parte qualcosa e vedere l'effetto che fa. Devo dire che tutto il pastrocchio che c'è stato in borsa nel 2020 con il Covid, i fondi sono mediamente stanno guadagnando, cioè sono in territorio positivo, che non è trascurabile con quello che stiamo passando in termini di recessione. Certo. Mauro, quindi, Marco, sì, Mauro, vedi che mi sembra Mauro, sempre che sia qua. Mauro, non c'è. Esatto, di Mauro. Mauro, gli ho dovuto dare qualche giorno di vacanza, ma non gliene darò troppi. Grazie a Marco Lo Conte. E comunque l'invito, lo avete sentito anche dalle sue parole, è molto esplicito anche nel suo libro, in edicola da domani con Il Sole 24 Ore, La pensione su misura, pensarla, costruirla e gestirla. Il nostro invito è: immaginate quello che vorreste fosse il vostro tenore di vita quando andrete in pensione. E presto detto, insomma, è facile da qui poi intuire che è importante fare un po' di sforzi anche per la pensione di scorta, come dicevamo, perché vogliamo vivere bene, visto che viviamo molto più a lungo rispetto ai nostri genitori, e quindi il tenore di vita deve essere adeguato. Grazie Marco, la borsa, e poi arriviamo subito con le caldaie. Allora, io vorrei sentire un giorno invece Deborah Rosciani, che invece di parlare di borsa alle 10.30 esordisce parlando d'altro. Vediamo. Di moda, come dicevo l'altro giorno. Proviamo, non lo so, di serramenti, di aperture a vasi. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Di denari. I really can't stay. Maybe it's cold outside. I've got to go away. Beati questi italiani che tengono tanti soldi sul conto corrente. Porca miseria. E chi sono? A me appena arriva lo stipendio, il giorno dopo è finito. Ciao, ne? Michele, da Torino. Mio figlio è prossimo alla laurea triennale presso il conservatorio. Una volta conseguita la laurea triennale, come potrebbe iniziare un percorso pensionistico autonomo? Grazie. Ciao Deborah, sono Ale da Brescia, ma l'esperto è per caso Leonardo Manera? Perché so che lui con le caldaie è diventato espertissimo. No, l'esperto non è Leonardo Manera, ma è Giacomo De Nicolò Volpe, presidente nazionale manutentori bruciatoristi della Confartigianato. Presidente, bentornato, per lei ormai un grande classico essere qui con noi in questo periodo dell'anno, e a noi fa molto piacere, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa Rosciani, e a tutti i radioascoltatori di Grazie. Radio 24. Voglio solo rispondere rapidamente al papà di quella ragazza pronta a prendere la laurea triennale al conservatorio. Può fare molto facilmente, si rivolge ad una società di gestione del risparmio, ce ne sono tantissime sul mercato, se vuole scriverci le possiamo fare noi la carrellata delle opzioni possibili. Può anche sentire la sua compagnia di assicurazione se ha un piano pensionistico da proporre per la sua ragazza. Le opzioni sono davvero tante. Se vuole cominciare intanto ad avere qualche idea sull'argomento, il libro di domani di Marco è assolutamente utile, oppure ci scriva duedidenari@radio24.it. Allora, al via da ieri la possibilità di accendere riscaldamenti in oltre la metà degli 8.000 comuni italiani, cioè quelli della cosiddetta zona climatica E, che comprende grandi città come la nostra, Milano, Torino, Bologna, Venezia, e poi anche zone di montagna in tutta Italia dove il clima è più rigido. In vista di questo appuntamento e della data formale, come si sa, nelle settimane immediatamente precedenti bisogna mettersi in regola con il controllo dei fumi, l'attività di manutenzione ordinaria della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, e quindi eccoci ancora una volta a parlarne, anche perché perché quest'anno, e c'è già qualche domanda, presidente Di Nicola Volpe, da quest'anno con l'ampia gamma di incentivi fiscali disponibili è possibile pensare anche ad una sostituzione dell'impianto, ma ci arriviamo con ordine. Allora, tutto in regola con i lavori di manutenzione, presidente? Come siamo messi quest'anno? Il Covid vi sta complicando un pochino le cose? Beh, il Covid sì, diciamo che la stagione è iniziata anticipatamente, il freddo è arrivato prima, per cui c'è stata una richiesta maggiore di lavoro a tutti i manutentori della zona climatica E, diciamo, che è la più importante. Però tutto sommato al 15 di agosto ieri siamo arrivati abbastanza in tempo. Ci sono i soliti ritardatari, ma quelli è una cosa, diciamo, piuttosto consolidata ormai, non ne possiamo fare a meno. Ecco. Vabbè. No, tra l'altro stavo pensando, presidente, per tutti i manutentori che devono andare ad eseguire i lavori appunto di controllo e quant'altro, chiaramente anche per loro le regole di sicurezza per entrare nelle case degli italiani sono rigidissime, immagino. Sì, noi come Confartigianato avevamo predisposto una checklist in occasione del primo lockdown che diciamo sarà recuperato nuovamente se mai dovesse essere necessario. Però già di default tutti i manutentori prima di accedere all'interno dell'appartamento dicono al proprietario di arieggiare i locali, di allontanarsi, di non stare insieme nello stesso locale, di mantenere a distanza e tutto quel che il minimo indispensabile per un lavorare in sicurezza. Sicurezza dal punto di vista Covid. Certo. Allora, presidente, andiamo invece alle regole come dire tradizionali per il controllo dell'impianto di riscaldamento. Abbiamo le due scadenze tipiche con le quali ogni anno peraltro ci confrontiamo e ci confondiamo anche, perché abbiamo il controllo di efficienza energetica, che è il cosiddetto controllo fumi, che va fatto ogni due anni, e per tutti gli altri impianti a gas ogni quattro. Cioè, allora già ho sbagliato. Sì. Ogni due in Lombardia, ogni quattro in tutte le restanti regioni. E infatti, perché c'è anche qui una autonomia regionale nello stabilire questi controlli. Sì. Diciamo che lei sa bene che l'energia è di competenza regionale, per cui ogni regione ha deliberato a proprio modo uso e consumo. E la prassi, Lombardia, diciamo, più diffusa qual è? La prassi più diffusa è quella di ogni quattro anni. Però ogni quattro anni è una verifica energetica che viene effettuata, mentre i costruttori degli apparecchi, l'installatore, il manutentore, che è ultimo, suggeriscono di attenersi al quanto previsto dal costruttore, per dire perlomeno una volta all'anno manutenzionare la caldaia, ai fini sicurezza e ambientale, certo, che è molto importante. Mm-hmm. Mentre il fattore risparmio energetico, che vale a dire il bollino o la certificazione ogni due, ogni quattro, quello è veramente per la regione interessa avere questo parametro, ma difatti non è indispensabile ai fini della sicurezza, ripeto, quindi è qualcosa che ci viene chiesto, noi lo facciamo. Le regole lombarde sono abbastanza particolari, come può capitare in tante grandi città italiane, perché sono molto diffusi i condomini con impianti centralizzati, e in questo caso credo, presidente, che le regole del controllo siano ancora più stringenti. Certo, qui sono annuali, qui nei condomini i controlli sono annuali e sono molto più stringenti, anche se devo fare una polemica che da qualche anno a questa parte sono diminuiti le ispezioni, i controlli, e per cui cose molto importanti per la sicurezza di tutti noi. Sono diminuite perché sono le province. È una nota dolente che fa bene a segnalare, naturalmente, perché noi vogliamo stare in case sicure, visto che siamo così tanto impegnati in queste ristrutturazioni, arrivano un bonus dietro l'altro, e oggi sono anche molto generosi, e quindi chiaramente tutto deve viaggiare, immaginiamo, di pari passo. Allora, i controlli non si fanno. Chi li deve fare, presidente? Chi li deve fare i controlli? Beh, i controlli li devono fare i professionisti abilitati dal DM 3708, suggerisco magari anche i tecnici autorizzati come centro assistenza autorizzate dalle case produttrici delle caldaie, che ovviamente devono avere quell'abilitazione di cui al decreto ministeriale, se parliamo di caldaie normali. Se parliamo invece di caldaie biomassa, oppure pompa di calore, perché si sta diffondendo anche l'uso della pompa di calore, oltre al DM3708 il professionista deve disporre un'abilitazione FER, che sono le ultime. Qui in Lombardia, è stata la regione più virtuosa e quindi noi siamo al secondo ciclo di abilitazione per le imprese, e se non dispongono di questa abilitazione non possono mettere mano sulle caldaie o sugli apparecchi pompa di calore. Suggerisco a chi ha i radioascoltatori, all'utente finale, di chiedere al proprio manutentore se dispone di questa abilitazione, perché è molto importante, perché in caso di evento tragico, se non disponendo di questa abilitazione, il giudice ne può ovviamente… Per cui è molto importante che abbia questa abilitazione. Allora, intanto stavo così curiosando fra i messaggi che ci stanno arrivando su WhatsApp al 349-238-6666. Lei, Presidente, si ricorda un po' come funziona in tutte le regioni? In Emilia-Romagna ogni quanti anni è obbligatorio il controllo della caldaia? Allora, bisogna, cioè, in senso generale... Penso ogni quattro in Emilia. Però, ribadiamo un po' i termini. Obbligatorio ogni quattro anni, esattamente che tipo di controllo? La compilazione del rapporto di efficienza energetica, punto 1, che gli addetti ai lavori stanno bene, il rapporto di efficienza energetica ogni 4 anni oppure in Lombardia ogni 2. Ma il controllo sulla sicurezza e quindi il controllo fumi è un'altra cosa annualmente. Annualmente se la caldaia è installata nei cosiddetti locali normali, tra virgolette, ma se pensiamo ad una caldaia installata presso una pasticceria o presso un parrucchiere, dove l'ambiente, l'area dell'ambiente non è certamente privo di agenti che possono danneggiare la combustione, e a questo punto è il manutentore che suggerisce ogni 6 anni, ogni 6 mesi, un'abitazione normale. Se no già qua i parrucchieri gioivano tutti quanti che quest'anno potevano limitarsi in questa spesa, invece no, altro che due volte l'anno. Purtroppo sì. Allora, considerare poi il discorso del riciclo dell'aria, che quella è un'altra cosa. Eccolo lì. Allora, magari lo affrontiamo dopo il traffico. Intanto 800 24 00 24 è il numero verde se volete intervenire in diretta. Dai, avete ancora una decina di minuti di tempo per i vostri quesiti a Giacomo De Nicola Volpe, presidente nazionale manutentori bruciatoristi di Confartigianato. Prendete i mezzi, fate il carpooling. Due di denari. When the water gets cold and freezes on the... Allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Le vostre domande le sto vedendo in questo momento, stanno vertendo un po' tutte sui costi del controllo, e adesso vedremo quanto il presidente De Nicola Volpe si vuole sbilanciare su questo. Però intanto volevo anche suggerirvi di andare sul sito dell'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, che propone le 10 regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni, evitando sprechi e in molti casi un'inutile sanzione. Sono state pubblicate proprio di recente, e allora ci sono regole di buonsenso sicuramente: esegui la manutenzione degli impianti, e la regola numero 1 mi sembra il minimo sindacale, controlla la temperatura degli ambienti. E questo è importante, Presidente, perché molto spesso, certo, anche ai fini... E anche della... Risparmio. E quindi, ecco, allora, io sono una abbastanza freddolosa, devo dire che apprezzo molto di vivere in una casa con l'impianto centralizzato, perché quando arrivo alla casa la sera, a Milano, questa è la cosa, la racconto sempre, il teporino già pronto, lo apprezzo molto, ma molto spesso i centralizzati effettivamente sono, danno un caldo all'ambiente veramente esagerato per molti che non apprezzano invece questo. E quindi però lì c'è la possibilità eventualmente di distaccarsi, di mettere le valvole, che consentono di regolare la temperatura ambientale della propria unità abitativa, Presidente. Sì, beh, diciamo che dal centro-nord l'installazione delle valvole termostatiche ormai è una cosa diffusa, già da anni, non da oggi, già da anni l'uso della valvola termostatica è molto diffuso nel centro-nord. L'installazione delle valvole termostatiche aiutano a equilibrare l'impianto di riscaldamento, quindi a eliminare, se non proprio definitivamente, a rimodellare quelle che sono quelle disparità tra i piani intermedi, tra il primo, secondo, terzo, quarto piano, che c'è chi ha freddo, c'è a casa, esatto, e chi sta bene. Infatti. Con l'installazione della termostatica si riesce a modificare, a livellare questo, a equilibrare. Una equilibratura dell'impianto. Perfetto. Si chiama questo. Quindi questo avviene automaticamente, perché io ho caldo, metto la valvola su 3. Invece prima avevo caldo, mettevo sempre la valvola tutta aperta, avevo molto caldo e aprivo la finestra. Questo, l'installazione della valvola termostatica, ha portato a mio avviso a un risparmio energetico di minimo del 15%, accertato nel corso degli anni, solo per aver installato la valvola termostatica. Mm-hmm. Quindi è una cosa molto importante. Allora, io temo che non siamo stati chiari, e allora ribadiamo questo concetto. Gli ascoltatori, ci sono 2 o 3 che chiedono: il controllo fumi e il controllo energetico sono la stessa cosa? No, il controllo della prestazione dell'efficienza energetica dell'impianto è una cosa ed è quello che va fatto ogni 4 anni. Due o quattro, esatto. Mi perdoni, dottoressa, sì, contestualmente alla compilazione di quel rapporto di efficienza energetica è lì che viene effettuata la prova dei fumi. Attenzione. Però, okay. Però il controllo dei fumi va fatto ogni anno. No, ogni 2 in Lombardia e ogni 4 nelle restanti regioni. Allora, cos'è che va fatto ogni anno? Sono proprio... La manutenzione, il controllo ai fini della sicurezza. Ragione. Esatto, okay. La verifica dell'impianto se è pieno, sfogare l'aria, il vaso di espansione in regola, non ci sono perdite di gas, il ventilatore della caldaia funziona bene, il camino è pulito. Queste sono le verifiche da fare annualmente. Ogni 2 anni in Lombardia, e se non sbaglio anche in Veneto, si fa la prova dei fumi, previa pulizia nuovamente della caldaia, e si compila il rapporto di efficienza energetica. Nelle restanti regioni ogni 4. Allora, il controllo per la sicurezza, quello standard annuale, quanto dobbiamo spendere, Presidente? Varia dai 60 ai 100 euro, questa è la forbice, perché dobbiamo vedere se per raggiungere la località dove devo pulire la caldaia ci impiego 10 minuti, può essere anche 60 euro, se sono in alta montagna può essere anche un po' di più. Ci sono molte aziende anche che consentono una sorta di abbonamento e quindi fidelizzano un po' la clientela e magari si riesce a fare un forfè. Assolutamente bene. Se ci capita l'anno in cui dobbiamo fare anche il controllo per l'efficienza energetica, la spesa sale di molto? No, diciamo, infatti io la forbice 60-100 può essere 60-130, ecco, la forbice. Allora, può salire di quel 40-50 euro in più. Certo. Allora, molti ascoltatori ci segnalano che hanno magari la caldaia non proprio all'interno dell'abitazione, ma magari in un edificio adiacente all'abitazione. Ecco, lì come funzionano le cose? In un apposito locale tecnico? Sì, credo. Adesso guardi, ripesco il messaggio, però insomma sono situazioni diffuse. Eccolo qua: ho un apposito locale a fianco dei garage e non all'interno dell'abitazione, e quindi, come dire, la periodicità dei controlli è la stessa? È la medesima. Se trattasi di caldaia inferiore a 35 kW, inferiore a 35 kW vale tutto quello che noi abbiamo detto adesso. Superiore a 35 kW diventa assoggettata a prevenzione incendi, per cui cambiano le normative e la manutenzione diventa annuale per la caldaia, non più biennale ogni 4 anni. Per gli edifici, Presidente, di nuova costruzione, dove immaginiamo anche che vengano installati oggi impianti di nuova generazione, impianti di riscaldamento particolarmente innovativi, esatto, e qui valgono le stesse regole di controllo oppure ci sono delle tempistiche diverse, un po' più leggere? Ci sono delle tempistiche differenti, un po' più leggere, giustamente come ha detto lei, in quanto non c'è più la combustione che è oggetto di pericolo, perché può diffondere in ambiente il monossido di carbonio, quindi è per quello che viene richiesta per sicurezza una verifica annuale. Invece la pompa di calore non crea questo pericolo, onde per cui bisogna sempre fare riferimento a quello che dice il costruttore, ogni quanto verificare e aggiungere a questo, ecco, questo dove ci sono le pompe di calore, aggiungere l'abilitazione F-Gas, che è molto importante per l'ambiente e verificare annualmente le perdite di gas, se ci sono perdite di gas, ma in relazione alla potenza installata, se è superiore a 12 kW o se è inferiore a 12 kW. Allora, vedo degli ascoltatori arrivati proprio adesso che siamo a ridosso della chiusura. Mi dispiace, Guido da Varese chiedeva perché non ci sono prezzi standard per pulizia delle caldaie, perché ogni abitazione ha un impianto diverso, richiede tempi diversi, però non è che si varia da 1000 euro a 100 euro. Il range, il presidente ce l'ha detto. Stefano da Milano, la manutenzione va fatta anche sui semplici scaldabagni a metano. 10 secondi, presidente? No, attualmente no. Benissimo, grazie. Ci ritroviamo qua al più presto e noi torniamo invece lunedì con Due di Denari. Invece io sono stasera anche a Focus Economia, mi spiace per voi, a dopo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.